Letture di Radio 24. In un episodio del suo film Decalogo, Kieslowski raccontava la storia di un uomo che vende un rene per comperarsi un francobollo da collezione. Sono passati più di 20 anni e oggi la notizia che un cinese ha venduto un rene per acquistare un iPad dimostra che la realtà supera la fantasia e che anche i sogni proibiti seguono le mode. Quando Zheng è tornato a casa nella Nui, aveva due oggetti che quando si era allontanato dalla sua Huaishan non possedeva né avrebbe mai potuto raggiungere. A 17 anni, nelle retrovie della Cina, non ti puoi comprare un computer portatile e un iPad 2, ammesso che sappia dove andarli a trovare. Zheng, invece, li possedeva entrambi. Un curvo 1000 piedi di carne ha detto la verità. Una cicatrice, il taglio nascosto. Xiao Zheng, il piccolo Zheng, aveva venduto il suo rene. Per 22.000 renminbi, circa 2.500 euro, si è fatto fare del male per un iPad e un computer. Dalla SZTV, la vicenda è piombata sui media nazionali, sui blog, sui forum. Era una storia ordinaria di miseria materiale e culturale che faceva cortocircuito con la febbre umana per i nuovi status symbol tecnologici. Ora è un dibattito. Sullo sfondo, un paese in cronica penuria di organi, con soltanto 10.000 pazienti, su 1,5 milioni in attesa, che secondo la Xinhua ogni anno riescono ad avere un trapianto. È l'estrema alienazione del materialismo, ha commentato la blogger MoNVNV su sina.com.cn. Mentre a un tale Chami sono bastati 12 ideogrammi su bbs.mai0511.com per denunciare triste stupidità, decadenza morale, fallimento dell'educazione. Zheng era partito il 28 aprile per Lunan. Lì, sotto l'interessata supervisione di 3 persone, il ragazzo è entrato all'ospedale 198 di Shenzhou, che non ha i titoli per eseguire trapianti. Ricompensato con 22.000 renminbi, 2.000 più del pattuito, Zheng è tornato a casa dopo 3 giorni di degenza, dove è stato scoperto. La madre è corsa a Shenzhou, ha denunciato il fatto alla polizia. «Volevo un iPad 2, ma non avevo i soldi», ha ammesso alla TV l'adolescente, spiegando di aver scoperto su internet un annuncio online che prometteva 20.000 renminbi per un rene. L'ospedale si è limitato a rivelare che il dipartimento di urologia è appaltato a un ricco uomo d'affari del Fujian, ma ha negato di essere a conoscenza dell'intervento su Zheng. I cellulari dei 3 supervisori sono come morti. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Marco Del Corona, il ragazzo cinese che vende un rene per poter avere un iPad 2 e computer, dal Corriere della Sera del 4 giugno. Letture di Radio 24. $3 miliardi. Questo è il valore che il mercato del gossip ha acquistato negli ultimi anni. Lo rileva un'inchiesta del New York Times, che svela anche i metodi non proprio giornalistici per ottenere scatti e indiscrezioni esclusive. Ma chi sono i protagonisti di questo affare d'oro del pettegolezzo? Altro che Schwarzi, Geco e gli altri ragazzi del gossip. Se oggi l'industria del pettegolezzo è arrivata a fatturare negli Stati Uniti più di $3 miliardi l'anno, in fondo è tutta colpa del vecchio partito comunista. Ricordatevene ogni volta che sbirciate Paris Hilton and Company. Ricordatevi di Howard Rushmore, il critico comunista che fu cacciato dal partito per aver scritto nel 1939 che Via col vento era un capolavoro. Neppure il New York Times ricorda adesso il suo sacrificio nella mega inchiesta sul gossip con cui il serissimo quotidiano ha aperto ieri a sorpresa il giornale, relegando di spalla le rivolte nel mondo arabo e la carneficina in Siria. Eppure, se non ci fosse stato Rushmore, oggi non saremmo qui a parlare di David Perel, il caporedattore di Radar Online, il sito di pettegolezzi lanciato con il rivale TMZ in una guerra per l'ultimo scandalo a colpi di centinaia di migliaia di dollari. Radar Online è l'emancipazione web del National Enquirer, il settimanale di pettegolezzi che, denunciando l'infedeltà matrimoniale del pretendente alla Casa Bianca John Edwards, l'anno scorso ha sfiorato niente di meno che il prestigiosissimo Pulitzer. E l'Enquirer è l'erede diretto di quel Confidential fondato da Rushmore che negli anni 50 mise a nudo gli scandali di Hollywood. Con quel fanatismo che solo gli ex di qualsiasi parrocchia sanno metterci in ogni nuovo corso. Mezzo secolo dopo, ovviamente, la scena è cambiata, ma non il delitto. Chi informa i gossipari? Chi ha dato a Radar Star il nome della mamma del figlio segreto di Arnold Schwarzenegger? Come è finita su TMZ la foto di Rihanna picchiata da Chris Brown? Mezzo secolo fa era la seducente e sedicente contessa Francesca De Scaffa, la biondissima amante d'origine italiana di Orson Welles e dello Scià di Persia, a confessare che sarebbe potuta andare a letto con chiunque pur di portare una notizia a Confidential. Ma già allora dietro giravano certi soldini e c'era soprattutto la mano dell'FBI del potentissimo Edgar Hoover, di cui il solito Rushmore era una gola profonda. Pochi i casi di chi esce allo scoperto, come Dawn Holland, l'impiegata del Betty Ford Center, la celebre clinica di riabilitazione, ha confessato di essere stata pagata $10,000 da TMZ per raccontare di quella volta che Lindsay Lohan si era rifiutata di sottoporsi a un test, scagliandole addosso il telefonino. Ma occhio, la confessione dell'impiegata è avvenuta non alla polizia, ma al sito rivale di TMZ, cioè quel radar online che deve averla ripagata profumatamente. Ovviamente pagare per una notizia è una vergogna che qualunque cronista in ogni parte del mondo vi smentirà. E per Elle di Radar Online non è un'eccezione. Usiamo solo le vecchie tecniche del buon giornalismo. Ma a parte il giro di soldi in nero, c'è pure chi trova la scappatoia alla luce del sole. Perfino la TV ABC consente il pagamento non certo di interviste, ma di materiale audio e video realizzato dai protagonisti. Così i filmini di Casey Anthony, accusato di un omicidio che in America ha fatto scalpore, sono stati ottenuti previo pagamento alla famiglia di $200,000. La verità è che il proliferare di siti e giornali e le moltiplicazioni di divi e meno divi, grazie ai reality show, scatena vere e proprie aste. Per una foto di Michael Jackson, in questo edificio sono arrivati a offrirci $2,000,000, dice Ed Winter, il vice responsabile del coroner, il medico legale di Los Angeles. D'altronde i mezzi non mancano. Sapete chi si nasconde dietro al battagliero e scandalosissimo TMZ? Time Warner, il gigante che dal magazine Time alla CNN, passando per la Warner Bros., gestisce l'impero dei media statunitensi, dall'alto del quale può adesso sdegnosamente guardare alle sterminate ma redditizie paludi del gossip. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Gossip, così il pettegolezzo diventa un affare d'oro, di Angelo Acquaro, dalla Repubblica, di lunedì 23 maggio.